Ferrari, che stai chiedendo? Amadi! Ebbene, per il freddo! Ebbene, per il gomma! Buffo! Oh, aspetta un minuto! Ebbene, per il freddo! A ci sei? E io? Già ci sono, tu ci sei! Sempre qua sono io, sempre acceso, e tu lo vedi! Allora io sono andato, mi hanno chiamato a fare un lavoretto, dai. Di una mezz'oretta, così. E va tu bene, e sei andato? Beh, secondo te lo vado. Lui. E beh, hai fatto bene, capita, già lo credo. Tutto è buono quello che arriva. E l'amico tuo, l'impresario. Bravo. Stamattina l'ho chiamato per dire una cosa, non ho sentito per niente, radio no. Perché è indaffarato, mi ha mandato un paio di messaggi stamattina, ma era indaffarato. Vabbè, credo sia più indaffarato. Sì, se non si dà da fare il bambino, poi gli impresari lo sai come sono. E Gianni Maria? Gianni Maria mi ha mandato un video in bicicletta, tutta manetta, per stare bene dritti va via. Addirittura. E allora, lo dovevi vedere lanciato con la sua torpedo blu. Che pedato stava? Eia. Ma c'era l'istruttore vicino a lui, dandogli gli ordini. Oh. E allora? Vabbè, meglio così. Poi l'ha anche truccata con la bicicletta, adesso cammina di più. Cosa gli ha messo? Rossetto? Rossetto e Rimmel? No, ha spostato la batteria da sotto a sopra. Più potente l'ha messa. Ecco. Ah, sulla luna, così ha detto me, se organizzegli. Che fai bene? Siamo andati sulla luna. E allora, così ciò che ha detto che mi viene un bene. Poi dice Graziano. Ah, secondo me è dormito Gio Maria. Beh, è dormito. Non si risponde, no. Mala, sì. È molto bene la recita, la profe. Uno è cagliato, Però tu sei per Natale. Comunque a me mi hanno spostato... il coso, dai, la... il ricovero. Ebbene, saranno nuova, va. Il 12 gennaio. Vabbè, già andate, va a fare qui, va. Infatti. Io ho fatto la visita che l'altro giorno, adesso devo andare il 18, dal diabetologo, il 19 dal controllo. Vabbè, c'è più una, stasera mi ho ritirato le medicine, le siringhe, le strisce, quella roba lì. Ma macchine! Quattro buchi mi fosse, mi ha dunque. No, nelle dita, la glicemia me la misuro la mattina, prima di pranzo, la sera prima di cena e la notte prima di notte. Sì, vabbè, comunque ne hai più, mamma. Mamma mia, alla mamma tu pensa, un pacco. Riusciva a colpirsi tutto il mese, che mese. Adesso ne fa solo una e ne erano tre pacchi. Vedi un po', ma ne ha. Già ne ha. Ma io già gli adopero, già ne ho sempre di sopra più. Qualche volta gli ho dato qualche scatola a mio fratello, qui c'è sempre il controllo dei glicemi. No, anche un diabetico. E lo faccio quattro insuline fa. Se non erro lì sotto i garage stanno facendo i piedini, no, grazie, dove abiti tu. No, dove abito io no. Non ne fanno dove abito, si è un musicaccio. Ah, se ne è pulito da poco e va per una lavatrice sotto. Boh. Bugazzaglio. E allora, fa venire vita e va, ne vai da pulito, tutto libero. E se ne è costato una lavatrice. Ma lei ci funziona brutta la lavatrice. Beh, la vita non mi sta riuscendo, può funzionare. Beh, certo. Prima. La gente è fuori di gabbia. È fuori di gabbia, non hanno rispetto. Yeah, carità. E ora vedo. Tanto è andato in ritorno, le case mi difficili, tanto la ammazza. Ma infatti come se tirasse la figlia. Cioè, avevo guardato nei dipinti, è un casino. E la gente non deve fregare niente. Oh, io, questa sera quando è giusta la figliura, erano usati a curare a terra. L'umaccio è una femmina, prendi in lanca, per carità. Cazzo, grazie, chi si campa di più di un universale? Campano i birino i sì, che per carità. E vabbè, magari fa. La dignità giapponese che terra. E ho ordinato un paio di camperos, belli, tutti in pelle, color marrone. No, molto? No, in offerta da Zalando. Zalando, Zalando. Belli, in offerta, 140 costavano, 110 spiccioli mi vedo. Già sono qui, quello che arrivano. Che li avevo conservati, però chi ce li aveva abbigliati, allora me l'ha messo, ce li aveva abbigliati da gruppo. Me li avevo messo un paio di volte, poi li avevo lasciati dentro la scatola, li ho messo anche quelle bustine che si mettono per non rovinarsi. E non li ha divulgati a rimanere, la rimborsa all'aria, qua sulla finestra del bagno, nel terrazzo. E c'è tutta sgretolata la pelle del gambale. E gli dico gesta a voce. Cazzo all'aria ci sono sgretolato. Gli ha tagliato e se ne ha girampato la mondetta. Ogni nervoso. Dove i nuovi? Me lo posso immaginare. Lo dici che tu mi ha da gusti, grazie. No, perché di pelle era solo la scarpa, diciamo, il gambale e noi era di biti, era biti sintetica, capito? Adesso invece questo mio processo è tutto pelle, pure il gambale. Col cane di più, ma non me ne affitto, ma vado una volta. Bella, comoda, a me mi sono sempre biaziti. E me li ho presi. Mi ho risparmiato il 15% risparmiato. E vabbè, sono belli massicci, vanno bene, dai. Ma io li ho visti, belli, nostri, questi scarponi grossi. Lì da... come cosa, da Batta o da Globo? Belli, 120 euro, va belli, eh. Ma che ci sono di marca? Guarda, c'è anche la marca scritta. C'è una fibbietta, no, nel gambale, in alto. Proprio incisa nella pelle, c'è la marca, no? Proprio. Ho capito, vabbè, grazie a te. No, io leggere applausi, aspetta, mi piacciono, sono, mi trovo bene con quelle scarpe. Va bene, ciao Marie, non mi tossi. Uno che fa il veloce a pulitini, ma che si infili rubini e si gli andenti. Già ce li ho anche le altre, c'ho gli scarponcini quelli con gannaitti. E chi mi deve vicino anche gli altri gannaitti, no che si entra i rubini e si andenti. Beh, certo. Già va bene allora. E poi il numero mio non è che lo trovi spesso su queste scarpe qua. Questo è proprio il numero mio, 39. Ma te li vedi? Io calzo 39 e 40, dipende dal tipo di scarpa. Ma queste, quelle che ho buttate erano 39 ed erano perfette. Queste adesso me le ordinate 39. E gli hanno già spedite, spedizione, resi gratuiti, se riesci a venire. E ya, ma l'hanno già spediti. E già va bene allora. Già va bene. Li metti per Natale allora. Tu già dimmi pure, sandwich. No, già spediti. Arrivano entro mercoledì o venerdì. Per Cristinovi ce li ha già il corriere, c'ho anche là il percorso che fanno. Sì? La strada che fa il percorso per portarli in Sardegna. La traccia. E il corriere. GLS li ce li ha. Quando arrivano? O domani o se no venerdì. Ho capito, già va bene allora. L'ordine l'ho fatto quando è, avanti di lì l'ho fatto. Si è fatto un regalo, va? No, a chi non può di voluto variare, me lo volevo mettere, quelli là ci sono fatti così. L'ho fatto a pezzi giù, l'ho pigliato la volpe in sé, gli elettrici saggi, tutti tagliati, ce l'ho lampato. Cazzo mi ha schifo, non ne piglio più da globo i botti. Oh. Ah, da globo li hai presi. Quelli che ci ho buttato, sì, però li avevo presi l'anno scorso. Me li ho messi un paio di volte e poi li ho lasciati dentro la scatola, nella scarpiera conservata. Noi ho anche altre scarpe, ogni tanto già me le mettevo anche qui. Due o tre volte me le ha promesse. Ha detto, beh, avami le bongo, mi rivolgo la cattura e bongo a fuoco, a pigliare l'aria e un'altra va a fuoco. E quando sono passato da poi due orecchie, l'ha già bendato. Cazzo, era lì tutto sgretolato. La vernicetta del gambale, non della botta, del gambale. Ho capito, gambaletto. Perché il gambaletto era sintetico, in pelle quelli lì c'era solo la scarpa, diciamo, capito? Beh, certo. Vuol dire grazie, molto che li pagati quelli. Non me lo ricordo, di meno di questi, un po' di meno. Proprio a chi vede lo gambaletto rimaneva più morbido. Questa invece è tutto pelle, botta e gambaletto. Ho capito, va bene allora. Saranno resistenti all'acqua sicuramente. E poi il colore è quello che piace a me, il colore marrone, come quello che ci ho buttato. Marrone un po' scuro rimane. Proprio alla paroeste, c'è anche tipo gli speroni, quel ferro, i due anelli con le cinturine, capito? Sì. Vabbè, se va bene allora. Il tacco proprio alla John Way, proprio bello cadenzato. Come te dici dell'West? Diciamo, mica io quasi pronto, vedo che qua c'è il livello. Già mi piace, non sono buono. Quando ti stanno più, ridere a me, taglio la punta. Adesso 43. Lo sai che stavo guardando altri negozi, anche in America, americani. Ce ne sono da 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, di tutti i prezzi. Però quelli dall'America, quelli sono americani. E venivo a come tipo la bandiera americana, però tutto quelle proprio originali. Comunque anche questi che ho preso io sono originali, camperos. sì, sì. No, quelle buone, buone, costano un pacco di lira, ma di due ricche. Quelli lì sono anche cacciatori. Campagna, sono belle. Certo, se li usi nel coso, nel fango, così te li rovini. E in campagna, ormai sono altro che quelle pietre dure, insomma. Un carro armato con le scarpe, veramente, ma sono belle. E durano, acqua non ne passa, A me così io li ho sempre avuti, ce li ho avuti anni e anni e anni, tipo queste che mi ho ordinato, e li trattavo gli adimmi. E ho capito, vabbè. 9 euro, i vostri amici più buoni, dai, non ne prendo proprio mondetta, mondetta, sì, che faccio uscita, rigirete, ti dice da dire. Ma proprio di battaglia, amico. Ai cinesi, mamma così mi regala di venire poco di questi posti. Mica quelle c'ha globo, sono dei cinesi, ma quelle da tenisi, non quelle care, quelle più o meno care. Guarda tu e vedi che sono dei cinesi. Vabbè, grazie. Tutti i cinesi hanno fatto di questa cosa, tutti. Per lo più sì, io ero grigio, però cioè, poi sono quelle mie sono da Zalando le ho prese, se no le stavo prendendo da Valverde anche, però erano più cari, era lo stesso tipo di stivaletto. Però ecco, cosa va un po' di più, ma se ti vai a fare un miglior asalanto, sciabini. Vabbè, adesso te risparmiare, poi ti hai risparmiato anche. Il 15% di sconto c'era, costa di meno. Se vado qua a Sassari, uno mi avesse la gatta, sì, e un anno mi ha girato tutti i negozi, nessuno una via, e chi ci vila via, ne va via nel cifu. E cucciavano i burumbe, non erano come li volevo io, capi? Ho capito. Vabbè. Purtroppo, le scarpe se le vuoi buone devi pagare. Io, vabbè, ho sempre avuto scarpe buone, dopo le... tipo le Nike, quindi... e mi duravano, Io c'avevo le scarpe di quando mi ero sposato, ma belle, mica un po' di tacchettino nere. Non a punta a punta, a punta a semiquadra, belline a polacchine e a scarpetta. Ne avevo comprate due paia quando mi sono sposato, un negozio al corso, di capretto era. A te quanti anni le usate quelle scarpe? Nuove di zecca. Poi una di mi sono cucciuffato, con la scatola e tutto, cioè, di tutti e due. E le ho regalate pure. Ma lei erano nuove, nuove, nuove. Le ha regalate. Perché la volta, non sono lì, sono aggiudato. La persona è un bello. La di che mi gira di apposto di pugno. Bacca della mamma, roba che non metto più, ma sono meglio roba. Poi ce l'ho buttata, camicie, ma un bel nuovo, lì. No, a buttare non ce l'ho buttate, io gli ho regalati, gli ho dati, cioè, camicie, gusti, pantaloni, me che faccio roba, mi comparate e non me ne ho buttate, l'altro io mi piace, ma qua ci sono quelle scarpe da tennis che hai comprato e non ti l'hai mai buttate, e le botte da tennis, e sono a strappo, mai messe meglio, e la gente mi ribongo la scarpiera, già mi pongo burugis. E la scatola ce l'ho buttata adesso, quello l'ho messo nella scarpiera. Cioè, me li metto qualche giorno. Io faccio, adesso, un giorno scarponcini, un altro giorno per i rattelli, poi le settimane metto quelli più uscine, là. E faccio così, me li uso un po' tutte. No, io invece proprio la mandronia mi tengo sempre che ci faccio a portata di mano. Vabbè, certo. Si fa così. No, quest'anno mi sa che scatto non me le compro. No, io mi ho preso quelle perché mi piacciono e poi non voglio mai dirgli che ci sono fatti così, se no non me li avrei comprati. No? E se ce li avevo, anche se il gambaletto quello là era, non era in piedi, però la scarpa c'era di pelle, capito? Il gambaletto, ma poi da dove ci si è fatta, te le immagini. Erano belle conservate, viene la scatola con la sua carta. Vuol dire che, vabbè, se hai inviati la Globo, io li ho visti la Globo, belle, belle massicce. E costano più di 100 euro. Ma bisogna vedere se sono con questo materiale che ci sono grezzo là da me, ma carregarono i buchi. E cosa? Se non le puoi conservare allora queste scarpe. Vabbè, purtroppo le scarpe hanno una durata anche loro, ci sono una vita, e poi dipende da come le usi. Se le usi bene, non fai un macco, ti metti a... così, grazie. Se le usi bene, metti il conto. Ma se me le ha promesse due o tre volte quelle, poi la scarpiera era piena, ha detto, beh, vale il bongo da 4 euro, il bongo 30 anni, mi rubo, quando li voglio me li dai. Invece poi non me ne ho più preso, sarà lì più un annetto, dai, che anni lì. Me li ha levati, mia figlia mi ha detto, ma non te li metti qui, ti sono sempre qua dentro, e dammi, esci il bongo un po' dall'aria, e ci sono fatti così. Magari avrà possibilità. Sì, 30 rubobili di legno, il salone sotto lo sportello, bigliamo in piena, 30 euro a cattra. No, sto pensando pure che magari è la reazione di quelle bustine che si mettono, che ci sono anche quando le compri le scarpe. Ci sono quelle bustine di sali che servono per non rovinarsi. Sì, ho capito. Cosa vuoi fare? Magari erano lì sempre chiuse, con l'odore di quelle bustine a contatto con l'aria, gli ha fatto reazione, si è bruciata un gambaletto a chi lui la vede. Aspetta, comprato nuovo, dai, a me lo sento tranquillo. Chi ci sono? Sono tutte di quelle, non ho capito. Chi ci hanno seguito? La pelle gli devi dare il grasso, però, se no sono tutti gheggiali. Mandami la foto. E adesso, lasciami se ce l'ho, perché l'ho levata adesso, aspetta. Ma sembra te l'ho mandata, mi dici. Aspetta, mi dici. Aspetta che guardo, Luca Flipper. Lo dici, non mi dica, voce mia, aspetta. No, non te l'ho mandata, ieri mi sembra. Allora l'ho mandata a Flipper. Adesso guarda, aspetta. Solo un attimo, grazie. Ehi, Lu. C'era il cane spaventato, l'ho avuto le bubette, spaventa, si nasconde dietro il letto. Come faccio a mandartela? Boh, non ci riesco. Non riesco a mandartela. Non c'è qua la precetta per mandartela. Non lo so. Come li hai comprati? Da computer? Si chiamano Kentucky Western. Come si chiamano? Kentucky Western. I vari tessani. Bicker marron. Poi ce ne sono altri tipi, i vari fritti, i 249. Questo 144. 139, 169, 199, di vari prezzi ce ne. Ma sono alti, ma i lacci hanno. Sono alti, ci sono Western, come quelli americani. ho capito, stivali western, da cavallo, stivali, scarpe, insomma, ho capito come sono, ora, sono scarponi io. No, sono stivaletti, a stivale, cioè a gambo basso e a gambo alto, quelli che ho preso io sono a gambo alto. E sono, se c'è il computer, il telefonino da Zalando, o nel sito Zalando, non ce l'hai? Che puschi, sì, li ho visti adesso, sì. E via. Ma sono marron con lo cinturone? C'è un cerchietto, due anelli, una dritta e una cinta e le faccette della cinghia ci sono. Ah, se te le mando, aspetta, te le mando io a te, mi ci sono quelle. Ehi, color marrone sono. Questi costano, scontati, 110,50, no? Guarda che te l'ho mandato, ti controllo. E come mai non ha fatto BB su WhatsApp? Adesso guardo, c'è BB su WhatsApp. Non è arrivato. C'è BB. Ecco, allora non c'è la connessione attaccata. Io ce l'ho la connessione, tu non ne hai. Non ci sei. Riesci a BB. No, non ce n'è, c'è quella che ti ho mandato io, quella ragazza. Con l'accendino. Ah, ma è bloccato. Vedi tu, vai dato tu. Non lo so. Io vedo solo un baffetto qua. Di solito sono due quando va spedito. Controlla bene qualcosa, boh. Mia, adesso ti manda questa. Prendilo online. Guarda se ti è arrivata. Ti ho mandato con una ragazza con l'accendino. Bloccato. Arrivata, sì. Arrivata. Non ti è arrivata. Dai, controlla se mi hai bloccato. Avanti, io ti ho bloccato. Io non ti ho bloccato. Mi Luca Flippa. No, dice Luca Flippa. Aspetta. Dai, vai, gatto, sei tutto fuori di campo, sì. Controlla se mi hai bloccato. Allora, vai in alto, nella chattata ci sono quei tre puntini, clicchi lì. No, aspetta, torni indietro, aspetta. Vai con la schermata, non delle chat, la schermata normale. Aspetta, allora. Io qua c'ho una fotografia tua col numero di telefono. Qua 62 finisce, no? Quello lì c'ho. Sì, ma tu come mi vedi, io te non ti vedo, è diverso. E allora cosa devo fare? Ebbene, ho premuto dove sono i puntini, per esempio, WhatsApp o Wi-Fi. No, là vai, aspetta. Nella pagina normale ci sei. Dove c'è stata la lista delle chat che hai, tipo è Luca, sicuramente, a me, e tre puntini schiaccia. Schiacci tre puntini, vai su impostazioni, ci sei? Allora, ecco. Schiaccio tre puntini, ok. Esci, nuovo gruppo, nuovo basket, WhatsApp, messaggi importanti, impostazioni. Impostazioni. Ecco, impostazioni lo schiacciate, adesso. Schiacciate notifiche e invita un amico. Account. Account lo schiacciato. Elimina, richiedi, cambia numero e poi privacy schiacciate adesso, corri fino ad arrivare, contatti bloccati, ultima accesso, magazzino profilo, conferma messaggi. Ebbene, non ho visto nulla. Allora, posizione attuale, stato, il mio stato, limite contatti, immagini del profilo, i miei contatti, poi i miei contatti, ultimo accesso. No, allora, ultimo accesso no, vai sotto, dove c'è scritto contatti bloccati, controlla se è qualcosa di qualcuno bloccato. Contatti bloccati, puntino numero 1 c'è scritto. E a me è bloccato. Non so come cavolo l'hai fatto, ma mi è bloccato. Clicca lì. Ho cliccato e gli ha fatto la sua... il tuo numero con la tua faccia. Ecco, fai clicca sopra lì e sblocca. L'ho cliccato, adesso lo mando a contatti bloccati. Era bloccato, adesso sbloccato, sì. Sto scrivendo, aspetta. Quasi ti arrivano i messaggi. Comunque mi ha bloccato. E qua c'è scritto contatti bloccati, però ci sei tu. Cazzo, contatto bloccato, come fai sblocca? No, se schiaccio la freccia me lo blocca, bloccati. Non la schiaccio e non si sblocca, e non si è bloccato. Ah, è possibile, se sono lì è perché sono bloccato. È possibile, non devo rimanere io lì, rimango solo i contatti bloccati, grazie. Allora, aspetta, lo rifaccio. Allora, pagina normale, tre puntini. Pagina normale dove ci sono i contatti, tre puntini. Impostazioni, account, privacy, scendi sotto, messaggi, contatti bloccati. Se io vado su questi qua che ho io, ci clicco sopra, no? Poi faccio sblocca, ma non sblocca, non blocca, è possibile che te lo blocchi. Non puoi bloccarlo lì, sono tutti i contatti bloccati. Ah, provava a mandarmela adesso, che mi sembra di essere sbloccato. No, no, c'è sempre, non ti arriva niente. Allora, aspetta, lo rifaccio. Allora, puntini. Tre puntini, impostazioni. Accanto. Account, privacy. Contatti bloccati. Allora adesso schiaccio la freccia, quindi la freccia l'ho schiacciata. Nulla è successo. Allora tu non devi schiacciare sulla freccia, tu devi schiacciare sul contatto bloccato e ti dici di sbloccarlo. Ecco, sblocca e metto il dito lì. E allora, ma la cosa stai scendendo? Adesso è sbloccato, tocca in alto sullo schermo, contatti seleziona un contatto da bloccare. I contatti bloccati non potranno più chiamare, né inviati messaggi. Adesso ti ho sbloccato, però prova. Riprova, controlla lì, sono ancora lì, sono ancora lì, sono ancora bloccato, controlla. Accanto, privacy, cos'è che devi acchicciare? Allora, dove c'è la lista di quelli che scrivi, i tre puntini, impostazioni, account, privacy, privacy, come la vuoi chiamare? Ah, ecco. No, privacy, dai, privacy, non è privacy. Poi vai su bloccati, contatti bloccati, io ne ho 15 per esempio. Non c'è niente bloccato adesso, non c'è più la faccia tua. Allora scrivimi tu. Aspetta. Guarda che ti ho scritto, Luca, ci sei, arrivato. Adesso sei online. Comunque, ma è possibile bloccarmi, Allora, bloccare una persona, ci vai sopra. Ma come ti ha fatto a bloccare un altro punto? Forse vai qua. Altro. Hai fatto un po' di manovre per bloccarmi, Ma la palovra che non ha già fatto nulla. Ma adesso è arrivato te quello che ho scritto, Luca, ci sei, ho scritto così. No, non mi è arrivato niente. Adesso sei uscita la fotografia tua sopra, col numero di telefono. Aspetta, facendo una chiamata. Allora, c'è una scritta, i messaggi inviati a questa chat e le chiamate sono ora protetti con la crittografia and offre tocca per maggiori info. E beh, sarai bloccato giù. Adesso c'è il tuo coso per la crittura. Segnare, aggiungi ai contatti, l'ho aggiunto. Lui! Eia! Io che decido, segnala, blocca, aggiungi ai contatti. prima aggiungi ai contatti, l'ho già stoccato, ebbene non succede nulla. Devi mettere il mio nome, ma se non è il nome non c'è il mio nome, no? No, io c'ho, c'è la faccia tua, io non so come così, era dubbia. È il numero di telefono che finisce 201, tuo. E il mio, e allora? Metti, aggiungi, fai, aggiungi nuovo, metti il nome in rubrica. Aspetta un attimo, che cazzo, non cammino, non c'è qui. E come faccio a mettere il nome? Vai su, aggiungi, aggiungi ai contatti. Se no vai, vai nelle impostazioni, tu per aggiungere un numero dove vai? Vai nella tastiera, digita il numero e poi lo salvi. Allora, adesso aspetta, schiaccia, aggiungi ai contatti, avanza. Aggiungi ai contatti e scrivi il mio nome. Segnala con segnalazioni, cosa vuoi scritto? Contatti. Cerca contatto. Aggiungi. Allora, Luca, ecco. E poi basta. Basta, e fai salva. Ma salva dove è scritto qua. Nuovo contatto c'è scritto. Nuovo contatto, sì, bravo. E se avessi vede, aggiungi il numero di telefono, c'è il cellulare. C'è già, avanti. Aggiungi il numero di cellulare, va bene. Salvato! E adesso? Adesso è a posto. Però metti un'immagine a quel cavolo di telefono. Un'immagine, non la sa caricare. Non è immagine, è una foto tua su WhatsApp. Ma nel mio profilo. E allora? E non c'è il cagnolino. Ah, ecco perché non ti vedevo, perché non c'era il mio numero memorizzato. Grazie a posto. Se no, cioè, tu ci sei tu e tua moglie. C'era anche quello. Adesso ho scritto, era baciato io, il numero di telefono, non lo vengo più. I messaggi inviati a questa chat e non si leggiamo. Il tuo, guarda se ti arriva adesso. Aspetta un attimo, ti mando di nuovo gli stivali, guarda se sono questi, gli stivali che ti ho comprato, questi sono. Sì, aspetta. Questi sono, vedi, sono originali, 15% di sconto. Sono belli, appena la fate vedere a capo, a Luca. Sono belli, no? Ma non scorre, come mai non scorre? Le posizioni, direi, devo stringare, non scorre, solo un appunto mi ha mandato. Quello è un capture, capito? Uno screenshot si chiama. Ho fatto uno screenshot dal sito. Già, sono belli qui. Avaro manda a flipper, a vedere se li piace. Allora, Luca, ecco qua, Flipper, glielo manda. Kentucky ci dice, mi ha detto Luca. Vabbè, non sapevo pronunciare, Kentucky. Perché lui è americano. E usa il precabè. Lui è magone, è americano. Poi vedi in alto c'è anche il cuoricino. Zalando. Sono belle, guarda che grossa la suola qui. Aspetta che leggo questo messaggio per quella roba, che mi ha mandato un messaggio un tipo, a ver se la vuole, Luca. Cosa? Stai cercando tu? Non lo so come aprirà, poi chiedo in giro a me. Aga, a me. Ma il cazzo, ce l'ho da poco io. È elettronico quello che c'ho. I nuovi che stanno uscendo sono elettronici. Aspetta che gli mando il messaggio a questa. Questo non c'è a posto, se no se l'avevi abbigliati. Aspetta, gli mando il messaggio. A vedere se l'ha detto a un'altra persona. Ehi, Alibi. Ciao, no, stavo sbadigliando, sono qua che vado da letto, non mai niente. Marina, ma ci alziamo a mangiare, ti aspetta 10 minuti ancora e poi andiamo. Che chiedo, Lu? Ma tu dove te ne stai comprando? Boh, magari i regali, boh. Ma sono qua, appena se ti polemizzavo Gascioni. Grazie, lo regalano. Guarda che se non le vuole nessuno. Se ci hanno messo sul comune, ce li ritira niente, perché li danno ai poveri, perlomeno. Antonello Pomponio mi aveva detto così. Sì, se li fanno un cascione, li fanno una pezza e ce li rampano, se li metti vicino al cazzonetto. Io so, cioè Antonello mi ha detto che vengono loro, si ributtano. E poi gli danno ai poveri, questi mobili qua. Pomponio mi aveva detto così. E il numero non me l'aveva detto. Ha detto che stavano aprendo questo locale, stesso lì vicino all'autoparco, un pochettino più avanti. In questo locale che li mettono lì questi mobili. E poi la gente che va invece di vendibili vi regalano, per esempio gli servi uno scaldabagno, antichi metti l'udazzini ci bilano, una cucina, antichi metti la danno se ti serve, se sta bagannuta. Un'ala lì vicino all'autoparco dove appunto mettevano la roba così, recuperabile, quello sì, l'avevo visto in televisione anche l'inaugurazione. Ma se vengono a prenderli per me volentieri. E allora tu avvicinati di lì, io manco visto l'ho quella televisione. Se tu ti avvicini lì, vengono loro, la prendono loro se si la butta niente. Vengono direttamente dalla casa tua, non a Rugaccione della Mondezza. Se li prende a Rugaccione della Mondezza li barra ieri. Se lo sono peccato. Ti avvicini lì in macchina in via Montello e ti informi, no? Entri dentro il suffizio, lo container e ti lo disegnisci. O magari se prende l'appuntamento te lo dà quello, quando vengono a prenderlo. Perché io entro giovedì sera ti devo buttare, capito? Perché venerdì poi vado a prendermi la parete attrezzata, perché dovete già lì sarà... E tu domani mattina, a 5 minuti, non ti vai a visitare, e vedo i baci in via Montello. Entri lì al coso o dell'autoparco e glielo dici. E tieni cosa dirigi, no? E lui va bene, che sto ancora lavoricchiando. Sentiamo dopo. Questo adesso mi ha detto che non c'è posto, che già sono nuovi, però non c'è posto in poche parole in ogni luogo. Avanti, ho mandato la posta a un altro, riesce a vedere se mi rispondi. Poi per la televisore già viene mio nipote a prendersela domani mattina. Va bene, la televisione già sta a tempo. Va bene, a dopo. Oh, grazie, Luca. Ma dove li hai messi? Non ce l'è qua nel gruppo. Ah, questo è il mobile, hai visto? Ma questo qua che hai messo adesso? Sono tre sono, dai, perché uno me lo sto tenendo qua, l'ho messo in camera. E sono un'angoliera, il porta TV e una cristalliera. Ma questa è la prezzata che stai vendendo, te la stavo regalando. Infatti, per quello, capito? Anche perché prendo meno spazio perché si sta in una parete, quindi invece mi occupa anche un altro pezzo di parete, capito? Sì, ma questa parete attrezzata, quella lì che te la sta regalando tu Giuseppe? No, oh, la sorella di mia moglie, Giuseppe. No, Giuseppe la sta vendendo 100 euro su. Ah, ecco, però i mobili che hai messo tu ci sono qua, non li hai messi nel tuo filo? No, su Marketplace l'ho messo nel regalo. Ah, ho capito, ma non mi ha passato niente. Aspetti, mando la foto, Luca, così le metti, aspetta. E a te non ti servono, Luca. Sì, a far legna, sì. E a Marina non li servono per campagna? No, sono a posto in campo. Marina c'è già i mobili. Sono anche nuovi suoi. Boh, non ce n'è qua, sto controllando ma non ce n'è. Adesso metto un milivanda. Ah, è detto qualcuno, appena si rismonta si riporta via. Ma io l'ho detto a varie persone, stavano ma ne rifugio, addirittura gli ho mandato il video che mi aveva mandato a me Luca. E Lu... Okay. E lui allora il frullatore ti serve, Luca? Cosa me ne ricordo? E a frullare. Te l'ho mandato. Come non mi arrivi più nulla? Adesso è arrivato, tiri. Cosa mi ha dato? Un frullatore video. Boh, a me non mi arrivi più nulla. Ma su WhatsApp o su Messenger? Su WhatsApp. A me non mi arrivi più nulla. Cadi. E qua perché esce nella fotografia? Se te l'ho mandato. Terzo utente lume, terzo utente Graziano. Sì, mi sei cazzato di embriaco, chi su acqua Vizzi, mio marito, lui ha, per carità. Per carità, buonasera comunque, per carità, ha detto che ce l'ha mandata, invece non l'ha mandata, ve l'ha detto. Guarda adesso è arrivato, sì. No, non ne faccio niente. Ma ci vieni già due qua sul tuo profilo. Perché è calo di vino. E a te arrivi giù dentro, man. Tenere. Arrivato sì. E cosa? Il frullatore. A me non mi avrei fatto niente. Se no avrebbe squillato. Adesso ti arriva. Ma funziona quel telefono tuo? Ehi, mi te l'ho mandato adesso. Adesso sei arrivato però. Aspetta. Luca, è arrivato te. E beh, manicomio. Chiama lì. Dimmelo. Capitoci. Arrivato te sul lato. No, non mi è arrivato niente. A chi lo stai spedendo? A chi lo stai mandando? A te l'ho mandato, e a Gian Maria. A me non mi arrivi tu nulla. Ti arrivi tu la città mia, e lui? Un tritadutto da mandare lui. Cazzo, è impedito mandare i cosi questo, Catta, boh, mezzi cosi che ci manda, catta. Ecco questo, sono notato che hai visualizzato il lui. Mandami il frullatore adesso. E io è arrivato. No, perché tu e lui, no io. E lui. Avanti, madre, un frullatore. Aspetta. Arrivato te. No, grazie, non mi arrivi nulla. A futtindini, va. Boh, mi pare strano. A me mi pare che il telefono 2 non funziona. A chi se non è arrivato neanche. Mi tiro lui. Ah, grazie. È un telefono mio. È un telefono 2, poi un abisso. Ma un abisso davvero, non è lo stesso della parola. Ma che il mio qua è a posto. Mi sono arrivati sempre i messaggi. Mi me ne arriva di una va. Me, a vai. Questa è a Sassari, la gara che hanno fatto con i manofattini, ha capottato i loro manofattino. Comunque a me non mi è arrivato niente, è tra il mio telefono e il tuo telefono, ripeto, c'è un abisso. Ah, scusa, se qui mi appare la fotografia adesso, se ti ho mandato quello non ti è arrivato. No, insomma, allora, ciò, Sì, le faccine, quella con il coso sopra. Sì. E quella bacio col cuoricino, quello sì. Prova a scrivere qualcosa. Adesso ti ha mandato questo, lo so che via è qua, e ci ha finito. Sembra la discesa del monte. Legare col malo fatto. No, la discesa del monte non è. La via del moderno, che via è quella che c'è la salita? Viale Trento, no? Mi pare Viale Trento. Ho capito, sì, Viale Trento. Hanno fatto la gara dei go-kart a Malofatti, no? E dove l'hanno fatto? Ah, Viale Trento, mia gente avevano mandato, dove? E ci ha finito, dove? Ecco. Giammari mi stavo mandato. Aspetta, lo guardo. E si è caputato, non l'hai visto lui. Grazie, prova a mandarmi un messaggio audio, prova. Aspetta. Mi te l'ho mandato, No, non sta arrivando niente. Mi asco. Arrivato, ok, guarda adesso. Non sta arrivando niente, nulla, riavvia il telefono allora, prova. A me non sta arrivando niente. Scusa, è qua dove ci sei tu, mi appare tutto quello che ti mando, Ci sono sempre la foto che ti ho mandato io degli stivali, con le due faccine che mi hai mandato tu e il look che ho scritto io, Non mi sta arrivando niente di te. Spegni e riaccendi il telefono. Vabbè, tanto già è ora di andare a cena, dai, grazie. Io mi sto alzando. Ciao Giovanni, se ci sei l'ascolto, buona cena. Ciao anche a te, grazie. Manda, prova a mandare qualcosa su WhatsApp, se ce l'ho. Me la porto in cucina, dai, ciao. Ehi, a me, no che bell'altro, aspetta. Guarda se ti arriva. E non fa. Allora. Arrivato, sì. Eia. No, Luca, sto dicendo. Questo sì, grazie. Dai, vabbù, io sto andando a cenare. Ciao Giovanni, buona cena. Ciao, grazie, ci sentiamo domani. Ehi, vedi, adesso c'è la fotografia tua con il nome tuo. E la chiudo io allora di te. Vedi, chi dà col numero di telefono e chi si è scritto solo Luca. Tu ci porti mai dato un altro Luca, non so come ho visto. Ciao Luca, ci sentiamo, dai. Buon proseguimento, serata. Ciao, grazie a chi do anch'io, dai. A domani se coincide, dai, ciao, buon proseguimento. Ehi, ciao, buonanotte, ciao a tutti, al prossimo giro. Grazie, dalla tua figlia, modificare il numero, è quello 201 finale, ma te lo fai memorizzare bene, che tu sicuramente lo stai mandando a un altro uguale, ma c'è la mia foto, però un numero diverso. Sai che non ci mantenni, a me non mi sta arrivando niente. L'ultima foto che mi hai mandato ci sono i tre anelli, ok? E quello va bene. Va bene, no, sono... Luca, ma sta studiando. Come dici due panni? In te la vita da ruletto di un'epizzata, ciao! Ciao Paolo, non ho capito cosa hai detto, Ciao, dai, buona cena. Avanti nei pisegni, non ci sarà della saponente. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Domani lo guardo, dai. Sì, guarda quando vuoi.